Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, non più tardi di un anno fa, in questa trasmissione fu discusso il fatto che l'Italia aveva presentato una domanda assieme a Marocco, Grecia e Spagna per il riconoscimento di questo riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità della dieta mediterranea. Già allora io ero stato molto, ma molto critico, e lo sono tuttora, anzi lo sono ancora di più alla luce di quanto è stato deciso nei giorni scorsi appunto dall'UNESCO. Poi vedremo le motivazioni, ma non solo, vorrei far ricordare che questo riconoscimento è già stato dato a qualcosa come a 139 beni considerati immateriali, tra cui il tango argentino, il flamenco. Ecco, io invito i miei amici romagnoli a presentare anche il liscio, in particolar modo a Casadei faccio questo invito: presentati Riccio, perché tanto vi viene dato questo riconoscimento del bene immateriale dell'umanità. Bene, perché sono ancora più critico? Sono ancora più critico perché pochi magari che hanno festeggiato, visto festeggiamenti un po' ovunque in Italia, non si sono resi conto che lo stesso riconoscimento è stato dato, udite udite, alla cucina francese, alla cucina messicana e ancora addirittura al pane speziato del nord della Croazia. Ecco, io queste cose non le ho viste scritto, ho visto semplicemente questo così, questa euforia sulla la dieta mediterranea. Allora mi chiedo che valore abbia addirittura presentato in quattro rispetto alla gastronomia e cucina francese, che ancora una volta ci surclasse. Se si va a leggere la motivazione, veramente la cucina italiana si deve nascondere, e così pure la cucina messicana e addirittura, dicevo, il pane speziato del nord della Croazia. Bene, detto questo, poi vedremo, approfondiremo molti argomenti, ma io voglio cominciare questo giro da Antonio Santini dell'Osteria del Pescatore di Canneto sull'Oglio, che ricordo negli anni 80, assieme a una persona che non c'è più, che è Franco Colombani, dette vita a un movimento per difendere la cucina italiana. Ecco, io chiedo a Antonio Santini, Antonio, ti senti sminuito che questo premio, diciamo questo riconoscimento, perché poi un premio, diciamo sono medaglie che valgono, non è che valgono molto, che sia dato alla cucina francese e addirittura alla cucina messicana? Buongiorno a tutti, ma devo dire che ci hanno concesso quello che abbiamo chiesto. Noi abbiamo chiesto riconoscimento assieme ad altri paesi della dieta mediterranea e ci hanno concesso questo. Avessimo richiesto come riconoscimento del nostro patrimonio, il riconoscimento del valore della cucina dei territori o della cucina delle regioni italiane, ma meglio dei territori, magari ce l'avrebbero concesso. Sì, ce l'avrebbero concesso, però ormai, come si può dire, il dado è tratto, nel senso che noi ormai siamo identificati come dieta mediterranea, ma addirittura siamo in gruppo, un gruppone, dicevo, per quel che conta un riconoscimento di questo genere, perché sicuramente non è un grande riconoscimento. Fra poco magari tutti se ne dimenticheranno, come si sono dimenticati di tanti beni immateriali, che è molto diverso da altri riconoscimenti dell'UNESCO, che dà città come Matera, che ha avuto dei ritorni di turismo da quando è stata designata patrimonio dell'umanità molto importante. Ecco, ma io ho letto, so che anche tu hai letto le motivazioni della cucina francese, che certo, è cucina della festa, cucina della gioia, è pratica, cucina delle grandi occasioni. Certo, in pratica recita questo. Lo ha stabilito il comitato intergovernativo dell'UNESCO riunito a Nairobi. Gli esperti dell'UNESCO ritengono che la gastronomia francese, con i suoi rituali e la sua presentazione, soddisfa le condizioni necessarie per entrare a far parte del patrimonio immateriale dell'umanità. Motivando la sua decisione, il comitato ha dichiarato che rappresenta una pratica sociale destinata a celebrare i momenti più importanti della vita dei singoli gruppi. Beh, direi che è una motivazione importante. Ci staremmo anche noi in una cosa del genere, ma fin quando non chiediamo nel modo giusto e non poniamo delle candidature forti, non sapremo mai essere. Noi siamo per il branco, non ci sentiamo talmente forti, quindi ci accodiamo a quello che fanno gli altri. Ma sentiamo Aldo da Padova. Buongiorno Aldo. Buongiorno Davide. Allora, io ogni tanto vi chiamo, io sono titolare del ristorante Letizia Due Carrare. Ho avuto già modo di intervenire altre volte per sottolineare giustamente la forza dei nostri prodotti e della cucina. Finalmente l'UNESCO si è reso conto che è un riconoscimento doveroso. Però voglio fare un appello anche ai colleghi ristoratori, perché dobbiamo proporre questi piatti, la pasta al pomodoro, l'aglio, sono cose straordinarie, ma anche io faccio pesce e qua mi do la zappa sui piedi, però anche sul pesce, cercare le cose semplici, le cose nostre, non le cose di importazione, le cose nostre, abbiamo dei prodotti straordinari della nostra pesca, del nostro mare, però sono che volte piatti poveri che non fanno cassa, diciamo, come si suol dire. E allora si tende a dare piatti elaborati, piatti costosi per portare sul conto. E questo non è bene, non è bene. Bisogna portare la gente al ristorante e a mangiare anche un piatto di pasta al pomodoro, aglio e peperoncino. Mi scusi Aldo, ma lei si sente molto vicino alla cucina marocchina e a quella greca? No, assolutamente. E allora? Assolutamente. E allora? No, io mi sento vicino alla mia cucina, al nostro territorio. Beh, allora lei esulta per questo riconoscimento? No, io esulto per il riconoscimento che hanno dato a noi per i nostri prodotti, però la cucina no, guardi marocchina... che non l'hanno dato ai prodotti, l'hanno dato a uno stile di vita, quindi non c'è nessun riconoscimento ai prodotti del Made in Italy. No, assolutamente. Allora ho letto questa male, è disinformazione. Però, niente, allora non ci siamo. Perché i prodotti sono pomodoro, olio e cos'è, qualche frutta e verdura, non c'è altro. Qualcuno ha messo dentro il vino, non capisco come mai ha messo dentro il vino. Non mi risulta che nella dieta di Kiss tanti anni fa, oppure nelle diete mediterranee, di solito ci sia il vino. Il vino è in tutte le diete, non è solamente in questa. Il vino è quindi in tutte le diete, bravissimo. Mi sembra un'appropriazione indebita questa. Sì. Ebbene, voglio leggere alcuni sms. Ho fatto un mese in Messico e praticamente mangiavo solo uova e panini, il resto è noia. Un'altra ancora, mi sembra che l'UNESCO si interessi di troppe cose e rischia di perdere credibilità. Bene, detto questo io voglio tornare un secondo ai nostri ospiti e a Corrado Barberis. Corrado Barberis, professor Barberis, l'avevamo già sentito, mi sembra un mesetto fa, quando avevamo discusso diciamo dell'errore di presentare l'Italia come dieta mediterranea. Ma caro professor Barberis, allora era un errore. Pensi ora che ci troviamo che il riconoscimento è stato dato sì alla dieta mediterranea, purtroppo, ma alla cucina francese, alla cucina messicana e addirittura al pane speziato del nord della Croazia. Lei che ha scritto un famoso libro sui pani d'Italia, che sono oltre 350, quindi credo che di questo se ne intenda. Cosa ne pensa, Corrado? Ma io penso che una volta di più che è una cosa demenziale. Pensiamo per esempio la dieta mediterranea vorrebbe esaltare l'olio e fa benissimo, l'olio d'oliva extravergine, vorrebbe esaltare la pasta e fa benissimo, ma che cosa sarebbe la nostra pasta senza i sughi di carne che l'accompagnano? Noi proclamando la dieta mediterranea e il piacere della pasta in sé per sé, non facciamo altro che condannare la pasta allo zittellaggio. Sono zittelle le tagliatelle senza un buon sugo di prosciutto o alla bolognese. Sono zittelli gli spaghetti che non hanno la matriciana. Sono zittelli i sedanini che non hanno di Napoli, che non hanno il sugo alla genovese. Quindi diciamo siamo proprio nella irrealtà pura, nella demenza perfetta. Bene, sentiamo Massimo da Treviso, un radioascoltatore. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti, io sono Massimo da Treviso, complimenti per la trasmissione. Intervengo, sono Massimo Linguanotto, sono legato alla storia del tiramisù per mio papà, ma intervengo per portare questa mia esperienza da cittadino normale. Ho tanti amici pasticceri e ristoratori che pensano, anziché fare attenzione al prodotto e al cliente, sono impegnati a fare gare ogni sabato e domenica, manifestazioni per arrivare primo o secondo, per essere citati nell'articolo del giornale, e quindi tralasciano quello che è la cosa più importante a mio parere, l'attenzione al prodotto e al cliente, e questa smania di essere i primi a brevettare il prodotto che poi deve essere riconosciuto a livello internazionale. Bene, dico solo una cosa, sono allibito da cittadino italiano da questo riconoscimento che è andato di dieta mediterranea, e mi faccio una domanda sola: ma chi è che ha presentato la candidatura dell'Italia? Cioè chi è e che competenze ha, perché non so chi possa essere stato, ma chi è e che competenze ha per presentare, per farsi scippare dal Messico la cucina italiana, che a mio parere è la numero uno al mondo, insomma. Bene, l'ha presentato il Ministero delle Politiche Agricole, ma diversi anni fa, non recentemente. Questa candidatura è parecchi anni che balla, come ballano molte altre, quindi sicuramente ci sono delle competenze internazionali, e c'è una procedura, e quindi questa procedura è stata eseguita. Bene, io ora vorrei chiedere ad Alberto Lupini, che è direttore di Italia Tavola. Ho visto un suo editoriale che diceva: dopo il sì dell'UNESCO tuteliamo il Made in Italy a tavola. Io chiedo a Lupini, ma forse non era meglio tutelarlo prima, Lupini? Ciao Davide, certo, quello che tu dici è sacrosanto. L'Italia, come al solito, è un arretrato su molte cose, soprattutto sulla difesa del Made in Italy a tavola. Io però, rispetto alle molte dichiarazioni fatte finora nella tua trasmissione, che contestano il fatto che non abbiamo difeso, tutelato una cucina italiana, vorrei dire, a costo di essere contro tendenza e in parte anche con te, ma non esiste la cucina italiana, esistono le cucine esattamente, italiane, sì. Esistono le cucine regionali, certo, italiane, ma non abbiamo mai codificato nulla di questo, ed è la fortuna, ed è quello che ci permette oggi di vincere nel mondo, cioè la varietà, la capacità continuamente di innovare sui menù, sulle ricette. Allora io credo, nel momento non abbiamo codificato nulla, l'Italia non poteva nemmeno presentare una richiesta in tal senso. Scusami Lupini, ma la cucina messicana non è codificata. Io credo la cucina che... la cucina messicana è nulla in fondo, e non porterà nulla di vantaggio a quel paese. Se invece noi siamo in grado di giocarci bene questo aspetto della dieta mediterranea, vuol dire in primo luogo poter imporre nel mondo, a tutti gli effetti, anche in maniera culturalmente supportata oggi dall'UNESCO, lo stile italiano dello stare a tavola, perché francamente degli altri paesi che hanno sostenuto questa cosa non ce ne può importare di meno. È l'Italia che fa la bandiera della dieta mediterranea. Beh, diciamo che la Spagna... anche quello che si diceva prima, scusa, non c'è la carne, ma chi l'ha detto? Cioè nella piramide della dieta mediterranea c'è tutto, c'è il nostro stile alimentare, la nostra modalità di essere, e se la sfruttiamo bene possiamo valorizzare su questa base i prodotti del Made in Italy a tavola. Beh, io non dimenticherei la Spagna dal punto di vista della cucina oggi è riconosciuta come leader a livello mondiale. Certo, innanzitutto. Ragione, Davide, però considera quanti prodotti di territorio alla Spagna, ne avrà un decimo di quelli italiani, no, ma... e questo non lo faccio sul calcolo stupido delle DOP, IGP e tutte queste cose che in Italia siamo capaci di elencare, di aggiungere in continuazione magari, ma non di tutelare, ma nella realtà effettiva della varietà dei prodotti che noi abbiamo, nessun paese ci può eguagliare. Io sono d'accordo con te su questo punto, un po' meno sul fatto che l'Italia non potesse presentare la candidatura come cucine. Perché no, non lo possiamo fare probabilmente, però non pensiamo di metterci al pari della cucina francese. Cioè no. La cucina francese è codificata da almeno 3 secoli, sì, ed è uguale da Marsiglia a Parigi, salvo qualche piccola variante di territorio dove viene aggiunta. Ma se tu mangi un piatto che è preparato sulle coste del Mediterraneo invece che in Bretagna, è la stessa identica cosa, sei sicuro di quello che puoi trovare. In Italia no, il bello dell'essere in Italia è che se tu parti da Milano e arrivi a Reggio Calabria, lo stesso piatto di spaghetti al pomodoro lo mangi in varianti innumerevoli. Allora, è difficile immaginare che questo sia un modo, come dire, facile da fare poi tutelare. Dobbiamo dirle allora nelle varianti, ma nelle varianti ci sta dentro di tutto. Beh, io il controsenso della nostra situazione. Io non sono molto d'accordo sul discorso della cucina francese, perché sì, è vero, è codificata da secoli, ma è completamente diversa. C'è una cucina centrale, nazionale, francese, esatto, parigina, ma il sud e nelle altre parti ci sono delle diversificazioni che non sono tali come in Italia sicuramente, però esistono. E come? Io credo che la diversità oggi sia un valore superiore alla centralità, e quindi l'Italia ha dei vantaggi sugli altri paesi enormi su questo. Dobbiamo lavorare su questo, certo. E quindi quello che allora bisogna rifare completamente una procedura, ma questa era stata fatta sbagliata all'inizio. Io ricordo che fra l'altro su questa faccenda della dieta mediterranea avevamo assistito anche alle sciocchezze tipicamente italiane, perché se non so se ti ricordi che 2 anni fa, quando è partita la procedura, c'è stato qualche esponente del governo leghista che si era messo di traverso perché diceva che noi dovevamo tutelare la dieta padana. Ecco, lì eravamo all'esagerazione, nel senso di contrapporre queste due cose era veramente ridicolo, sicuramente non ci sono dubbi, non ci sono dubbi, però c'è la diversità, c'è la diversità che ci sono, infatti è il valore e noi dovevamo, secondo me dovevamo presentare proprio questo, cioè la diversità della cucina italiana. Comunque ci sono molti radioascoltatori. Felice dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, io riguardo questo discorso, io sono un produttore di olio biologico pugliese, praticamente diciamo la zona dove si produce l'80% dell'olio italiano. E niente, volevo dire che ormai il nostro prodotto, nonostante sia eccelso, è roba varia, cioè viene così, cioè non lo stiamo buttando, lo stiamo veramente regalando, proprio perché non siamo tutelati in nessun modo e non siamo assolutamente qualificati. Questo diciamo grazie un po' a tutto il sistema Italia che non funziona e che va malissimo. Cioè volevo dare questo grido d'appello che noi stiamo regalando praticamente l'olio, le olive a prezzi bassissimi, Felice, avendo un prodotto, sì, mi dica. La interrompo perché 2 settimane fa abbiamo fatto proprio una trasmissione su questo, quindi abbiamo discusso, io le do perfettamente ragione, non tuteliamo sufficientemente il nostro olio, tutto il più ora che abbiamo nella dieta mediterranea la Grecia e il Marocco e la Spagna, che sono 2-3 paesi tra i grandi taroccatori del vino, dell'olio Made in Italy, quindi ancora di più il suo intervento è corretto. Sentiamo Dino dalla provincia di Venezia. Buongiorno Dino. Buongiorno carissimo, e intanto la saluto anche perché io ho ricordo di lei per la storia del tramezzino quando è venuto su qui a Venezia. Sì. Se lei si ricorda. Sì, no? Sì. Allora io mi ricordo con quell'entusiasmo che è stata fatta quelle serate, quella cosa. Chiaramente portandola all'oggetto del riconoscimento come è stato messo della cucina italiana, se mi può passare una battuta, a me non interessa nulla. Io ne sono orgoglioso, perché quando io vado dai miei clienti che hanno locali, pizzerie, trattorie, ristoranti, osterie, quando vedi lo straniero, quando vedi qualcuno che arriva, che si alza e dice qui si mangia bene, c'è il premio internazionale. E purtroppo noi non potremo mai contare a livello internazionale per mille motivi che anche il suo interlocutore prima ci ha aiutati un po' a capire queste cose. Beh. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi, andare avanti, se ne importa se non ce lo riconosco. D'accordo con lei, viva il Made in Italy. Torno a un secondo a Corrado Barberis. Ha sentito Barberis? Anche la carne fa parte della dieta mediterranea. Anche la carne, certamente, perché se noi prendiamo i risultati degli scavi compiuti a Populonia, sulla costa toscana, ci rendiamo conto che il 40% delle carni che venivano consumate a Populonia, questo si desume dai residui, dalle ossa che vengono trovate sul luogo, erano di bovini, il che vuol dire che le bistecche alla fiorentina esistevano già al tempo dei romani. Per quanto poi riguarda la polemica sulla cucina francese, vorrei dire che abbiamo una testimonianza inoppugnabile, che è quella di Voltaire, il quale all'inizio del Settecento, quindi 3 secoli fa, come è stato detto prima, 3 secoli fa scriveva e attribuiva il titolo di Nouvelle Cuisine proprio a quella cucina che poi col nome di Nouvelle Cuisine è stata sepolta o perlomeno messa in crisi da Bocuse. In sostanza, fino al 600 la cucina francese, fino a tutto il 600, era una cucina largamente medicea, dominata dagli influssi italiani. Poi arrivano le creme, arrivano i cognac messi nei sughi e si crea la cucina francese nuova, Nouvelle Cuisine, come diceva Voltaire. Ma è proprio quella cucina che è stata adesso messa in crisi dal ritorno all'antico, dal ritorno alla natura, proclamata da Bocuse e dai suoi seguaci. Grazie professore, grazie ad Alberto Lupini. Bene, allora sentiamo Enrico dalla provincia di Salerno. Buongiorno Enrico. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io sono uno chef, chiamo da Cilento. Allora, volevo dire, io sono molto felice del riconoscimento, al di là poi di come è stato dato e via dicendo. Però è un invito che farei ai colleghi, cioè a noi ristoratori. Dobbiamo essere noi poi a valorizzare questi prodotti, specialmente nel nostro territorio dove c'è l'olio d'oliva, le carni buone, il pesce, e senza eccedere poi con funghi con la panna e via dicendo. Cioè, volevo dire, io ho notato qua, perché poco che mi sono trasferito, poca professionalità. Ci sono tanta gente che si dà da fare veramente perché ama questo lavoro come lo amo io, ma c'è tanta improvvisazione. Ecco, Enrico, volevo chiedere se lei i prodotti si riferisce al pomodoro cinese, all'olio taroccato che arriva dalla Grecia e dal Marocco, alla pasta che viene fatta in Polonia, perché in fondo è questo che si trova oggi anche in Italia, quindi valorizziamo anche questo, secondo lei? No, Paolini, ascolti, io ho lasciato Milano perché non trovo più i miei prodotti. Sono venuto nel Cilento perché qui c'è l'olio buono, sì. Raccolgo le olive, faccio l'olio ed è questo il prodotto che io dico di valorizzare, di tenere in considerazione. Insomma, bisogna andare tutti nel Cilento allora. Bene, grazie. Non è vero tutti nel Cilento, basta avere l'orto. Grazie Enrico, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Visto che lei ha fatto così, come posso dire, un richiamo ai colleghi, ho un collega sicuramente di così molto significativo. Buongiorno Gualtiero Marchesi. Ciao Davide, sei sempre bravissimo, cogli sempre il momento giusto. Gualtiero, ma tu fai una cucina tua contemporanea o una cucina mediterranea? Io faccio la mia cucina, che è italiana, perché io sono italiano. E dico, poi ricordo una bellissima frase, non mi ricordo più di che sia, che dice: le novità si ottengono arrangiando in maniera inedita le cose del passato. Ecco, io sono un po' anche il passato, non sono solo il presente, no? Ma diciamo che io non voglio continuare perché sennò sembra troppo polemico, ma no. Hai visto che hanno dato riconoscimento anche alla cucina messicana? Sì, no, ma quello che mi stupisce soprattutto è il fatto che ci sia la cucina francese che è diventata patrimonio, ma noi italiani siamo proprio abbandonati così, no? La nostra storia è lunga, importante, non so veramente, sono allibito di questa cosa. Bene, rimani con noi perché abbiamo il portavoce del Ministro delle Politiche Agricole, Franco Miracco. Buongiorno Miracco. Buongiorno a te Davide. Senti Miracco, ma voi avete ereditato questa proposta, perché è stata fatta diversi anni fa, ma voi ne eravate convinti, siete convinti, cioè avete così, come posso dire, applaudito a questo riconoscimento? Sì, siamo convinti perché molti erano convinti, visto dalle dichiarazioni che hanno fatto seguito ad un'affermazione, ad un riconoscimento non così scontato. Adesso sentivo il maestro Marchesi, anche lo chef di prima del Cilento. Tra l'altro il ministro Galan ha dedicato questo riconoscimento, non so se prima è stato ricordato, al sindaco di Pollica Vassallo, che è stato ucciso qualche settimana fa, purtroppo, perché fu uno degli iniziatori di questa impresa. No, non l'avevamo ricordato, sinceramente non lo sapevo. Quindi No, è vero Davide, si segue poco l'agricoltura, non tu, ma i giornali, diciamo, generalisti dell'agricoltura non gliene frega quasi niente, se non quelle rubriche in cui per fortuna invece emerge l'interesse per le cose che anche tu segui benissimo da molto tempo. No, c'è la faccenda della Francia, c'è la cucina messicana, le cose che hai detto tu, però non dobbiamo, è vero, esiste, secondo me è vero che esiste una cultura immateriale, cioè uno stile di vita riconoscibile come appunto dieta mediterranea in questa formula, forse sicuramente generica e quindi poco affascinante, ma noi sappiamo cosa vuol dire. L'UNESCO ti dà un riconoscimento, per esempio ti dà ai beni materiali, ai cosiddetti beni culturali, poi spetta al paese valorizzarlo. Qualche giorno fa è crollato qualcosa a Pompei, adesso non so se esista, è inserito o no, in Italia sono moltissimi siti inseriti nel patrimonio, nella lista UNESCO del patrimonio materiale dell'umanità. Ecco, è crollato, sarà colpa dell'UNESCO o è colpa dell'Italia? Se a noi viene riconosciuto questo primato della dieta mediterranea, che tra l'altro è condiviso con altri paesi, vabbè, aspetta a noi valorizzarlo, valorizzare questo riconoscimento, e se no pazienza, e se no tanto il successo della nostra cucina, del cosiddetto Made in Italy, eccetera, eccetera, mi pare che stia andando avanti lo stesso. Se il turismo culturale, di cui tu tante volte hai scritto e parlato in modo straordinario, non ritiene di, come dire, di far proprio anche questo riconoscimento dell'UNESCO, per me sarebbe un guaio, un difetto, un venir meno a un possibile vantaggio. E se no pazienza, cioè non è che c'è da, certo colpisce il solito, la solita tradizionale, anche antipatica, singolarità francese, certo. E però li abbiamo battuti, mi pare, leggendo le cose che tu scrivi, nei vini, e li batteremo anche, continueremo a battere anche in una cucina che si sta sempre, ormai da anni, affermando nel mondo. No, è un riconoscimento culturale. Bene. Se vogliamo sentirlo, lo si utilizza, lo si pratica, lo si sostiene, si fa di tutto per valorizzarlo. E se no pazienza, ce ne freghiamo delle case che muoiono, che crollano a Pompei, o di come perdiamo tanti nostri centri storici. Vedi, uno dei cultori, secondo me, della dieta mediterranea sei proprio tu, un profeta, in uno dei tuoi libri. Io ricordo una prefazione, un tuo libro in cui parli del riso col latte. Ecco, memoria, tradizioni, ricordi di famiglia. Per me quel riso con il latte che tu hai scritto e ricordato in una tua prefazione, in un tuo libro, rientra. Bene, ti interrompo ora, sennò mi fai troppi... di vita mediterraneo, rientra perfettamente. Io lo ricordo. Io ne ho memoria. Bene, grazie Franco. Anche questo, e se no, ti ripeto, pazienza, non ci sbracceremo, non ci stracceremo le vesti, stracceremo le vesti, perché se la Francia o il pane speziato della Croazia, aspetta a noi valorizzare noi stessi. Grazie Franco, sentiamo Felice da Bergamo, un sacco di radioascoltatori. Felice da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire, penso che anche lei avrà letto La leggenda del buon cibo italiano. Noi abbiamo delle ottime ricette, ma non abbiamo più la materia prima, facciamo i salumi con i maiali che arrivano da chissà. Quello che ho detto prima. Appunto, quindi o dovrebbe costare un'ira di Dio per avere quel poco di genuino che c'è ancora, perché per esempio importiamo una quantità spaventosa di extravergine di oliva dalla Tunisia, oppure, non so, sì, sulla carta forse è la migliore del mondo, ma non abbiamo più i materiali. Grazie Felice. Sentiamo Sergio da Modena, buongiorno Sergio. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, è molto istruttiva. Volevo associarmi a tutti i radioascoltatori intervenuti che hanno espresso la loro meraviglia per questo riconoscimento concesso alla Francia e non all'Italia come paese singolo. Però volevo aggiungere una cosa importante. Grazie a Dio io ho avuto la fortuna di girare veramente tutto il mondo e ho visto che i ristoranti francesi negli ultimi 30-40 anni ormai tendono a zero. Una volta erano diffusissimi in tutto il mondo. Ora, al contrario, sono molto molto diffusi quelli italiani. Verissimo. E quindi questo vuol dire che, grazie a Dio, la popolazione mondiale non è proprio così scema. E vorrei chiedere ancora a Gualtiero. Gualtiero, è vero che ormai è difficile trovare prodotti a Milano e dintorni e in tutta Italia, dei prodotti veri, prodotti della terra? Ma io credo che sì. È difficile, ma io l'altro giorno, un paio di volte mi è capitato di, appunto, non so, per esempio Golosaria, io ho trovato un'infinità di prodotti che gli italiani, ho trovato un artigianato forte che magari attinge a prodotti di importazione per poi trasformarli, ma non dimentichiamo che secondo me sono bravissimi, io ho assaggiato e ho visto delle cose veramente eccezionali. Ma io vorrei dire una cosa su questa storia della cucina francese, ma noi scambiamo la cucina regionale francese, no? Che è poi anche la cucina regionale italiana, con la grande cucina che non è francese ma che è internazionale, perché è una codificazione delle tecniche di cottura, no? Allora, e che ha attinto, siccome avveniva nei grandi alberghi che erano appannaggio dei grandi ricchi, diciamo, no? Che magari non capivano fino in fondo, ma però che mangiavano la cucina internazionale, era internazionale anche proprio perché attingeva al patrimonio di tanti paesi. Si mangiavano i goulash, come dei Kiev, come tantissime ricette, perché il cliente era un cliente internazionale, per cui trovava nel grande albergo questo tipo di cucina, che è stata codificata da un francese, Lescoffier. Ma io, per esempio, che vengo da una famiglia dove un'infinità di parenti erano, uno era chef da Rizza di Madera, l'altro del Grand Hotel di Roma, l'altro da Tripoli, l'altro da... E questi facevano la cucina internazionale, che non era francese, era la cucina professionale. Quando il primo intervistato ha detto che non abbiamo, è vero, noi siamo carenti di professionalità, allora siamo ancora alla cucina matriarcale, secondo me, e la gente va dove c'è la cucina matriarcale, più che andare nel grande ristorante, ammesso che il grande ristorante ce ne siano poi molti, no? Perché adesso... bisognerebbe un po' vedere tutto questo. Bene, grazie a Gualtiero Marchese, ti ringrazio. Sentiamo Luigi dalla provincia di Bari. Buongiorno Luigi. Buongiorno Paolini, buongiorno. Senta, io devo fare un intervento, diciamo, un po' polemico, e lo collego a quello dell'intervento del signor Felice, che è un mio conterraneo pugliese, olivicoltore anche lui. Io chiamo proprio dalla raccolta, io sono in campagna a raccogliere le olive. Senta, questo riconoscimento, a prescindere dalle discussioni che state facendo, io dico, a che serve? Se il nostro prodotto non vale nulla, a 3 euro, a 2,50 euro l'olio, quindi non ha senso neanche queste polemiche, quando il prodotto genuino, il prodotto base di questa dieta viene così preso a calci. Bene, la capisco benissimo. Sull'olio, come dicevo, ci siamo tornati molte volte, abbiamo condiviso questa idea, ma mi fa piacere che lei che sta raccogliendo ascolti la radio. Grazie Luigi, e sicuramente questo è un pensiero che è un pensiero sicuramente condiviso. Credo che anche Carlo Cambi, il giornalista che ora sentiamo, che è, diciamo, autore dell'inserto di Libero che esce ogni sabato, sarà d'accordo. Buongiorno Carlo. Ciao Davide, buongiorno a tutti gli astronauti. Sì, sono d'accordo, io stamattina sul Libero ho fatto un editoriale, secondo me abbastanza pepato, in cui dico una cosa, abbiamo fatto questi teana di fronte a un UNESCO che ha fatto Todos Caballeros e ci siamo portati dietro, anzi noi siamo andati dietro, agli spagnoli, ai marocchini e ai greci, che sugli ingredienti della cosiddetta dieta mediterranea sono i nostri principali concorrenti. È quello che sostengo io da tempo. Perché metà dell'olio che noi consumiamo arriva dalla Spagna e dal Marocco, perché metà degli agrumi che vanno nei nostri supermercati sono coltivati da quei paesi, perché il pesce italiano copre appena il 35% del fabbisogno, e noi invece di puntare al dato culturale, cioè all'elaborazione che è la cucina, ci siamo accontentati di essere trattati da contadini in condominio, avendo la dieta mediterranea la caratteristica di essere una finzione, perché è codificata da un americano che ha osservato comportamenti alimentari simili in tutto il bacino e poi ha detto semplicemente una cosa: questi mangiano correttamente, punto. Bene, e volevo chiederti una cosa, c'è stato questo inserimento, ho visto nei giorni scorsi tutti hanno inserito anche il vino, molti così consorzi di produttori hanno così detto benissimo questa dieta che contiene anche il vino, ma io rimango un po' interdetto, ma il vino, cioè, è in tutte le diete, non è solamente sulla Mediterranea, non è che la Mediterranea a questo punto ha avvocato sé il vino. No, ma assolutamente, il vino intanto sì, sicuramente è un dato di consumo storico radicato nel Mediterraneo, perché era un integratore alimentare fortissimo in termini di calorie. Non ci dimentichiamo che questo paese 70 anni fa aveva un livello che era quello di sussistenza in buona parte del suo territorio, e il vino era un forte integratore alimentare. Il problema è un altro: se noi vediamo la dieta mediterranea come quel regime che ci mette in rapporto diretto con la campagna e la ruralità, allora si può recuperare un'abitudine a bere vino in termini mediterranei, cioè con un uso quotidiano, consapevole, senza abusi, senza trasformare il vino nel veicolo dello sballo. In questo senso può aiutare, ma è una forzatura dire che il vino appartiene alla dieta mediterranea, perché per conto ci sarebbe il paradosso francese, cioè quello del Médoc. French paradox, contorno, French paradox. French, eh? French paradox si chiama. Esatto, il paradosso francese che dice: questi mangiano foie gras, un sacco di proteine animali, non hanno colesterolo perché evidentemente bevendo un sacco di vino, certo, uccidono il colesterolo cattivo promuovendo il colesterolo buono. E quello è un regime tutt'altro del Mediterraneo dal punto di vista alimentare. Ma fammi dire che in Sudafrica, dove certo non si mangia la Mediterranea, i coloni tedeschi, olandesi e francesi che sono arrivati e che fanno vino lì da ormai 150-200 anni hanno un regime alimentare che non c'entra nulla con la dieta mediterranea, e il consumo di vino in Sudafrica è in continuo incremento, soprattutto tra la popolazione bianca e quella di colore che è emersa dalla povertà. E quindi di che stiamo parlando? Perché l'asado argentino insieme al Malbec argentino è mediterraneo, che c'entra? Il vino è compagno di qualsiasi cibo. Ti devo interrompere perché ho 30 secondi, ho tre telefonate da Varese, sentiamo Enrico, uno solo, un varesino. Buongiorno Enrico, velocemente però. Buongiorno agli astronauta, a tutti gli ascoltatori. Senta, io parlo così, essendo iscritto... Ho 30 secondi, 30 secondi. Parlo a nome dell'Accademia Italiana della Cucina, la quale è suddivisa in delegazioni su tutto il territorio nazionale e si interessa di questi prodotti, soprattutto dei piatti caratteristici di ogni zona. E per cui abbiamo introdotto il sistema di codificare un po' questi piatti in modo da salvaguardarli da ogni deviazione particolare di ognuno, perché sennò non si va più a casa. E noi ad esempio in Paese di Varese tempo fa abbiamo codificato i bruschetti di Busto Arsizio. Bene, in ogni territorio avete così codificato dei prodotti. Benissimo. Enrico, mi dispiace, non ho più tempo. Grazie Enrico dalla provincia di Varese. Bene, abbiamo chiuso questo giro di dieta mediterranea. Ringrazio Peter Bescapè in regia, Anita Panizza e Giorgio De Luca in redazione.